5D. Ascolta e rispondi. Che cosa facesti in quell'occasione? Feci poco o niente. Che cosa facesti quella volta? Feci un lungo discorso. Che cosa facesti quel giorno? Feci solo silenzio. Che cosa facesti quell'anno? Feci una bella conferenza. Che cosa dicesti ai presenti? Dissi la verità. Che cosa dicesti agli invitati? Dissi molte cose. Che cosa dicesti ai colleghi? Dissi una bugia. Che cosa dicesti ai cugini? Dissi una stupidaggine.